305. Scaloppine con la panna acida. La panna acida è la panna comune, ossia il fior di latte, quando ha preso l'agro, il qual difetto non nuoce, anzi migliora il piatto che riesce delicatissimo. Prendete carne magra di vitella o di vitella di latte, tagliatela a braccioline, battetele, infarinatele e mettetele al fuoco con un pezzo proporzionato di burro. Conditele con sale e pepe e fatele bollire ad agio finché abbiano preso colore da ambedue le parti. Allora bagnatele con la detta panna e per ultimo con un poco d'acqua o brodo, se trattasi di vitella di latte, onde la salsa non riesca troppo densa e possono cuocer meglio. Servitele con spicchi di limone a parte. Per 4 persone grammi 500 di magro senza osso, grammi 70 di burro e 2 decilitri di panna.